9:24, sempre di mercoledì 2 marzo 2005. Sono passati 45 minuti dall'ultima registrazione, ma non sono ancora arrivato sul posto di lavoro. E questo a causa di un ingorgo che mi ha bloccato sulla corda anulare. E gli ingorghi possono essere di vari tipi, indubbiamente. Nel frattempo sentite anche un martello pneumatico, c'è anche una zona di lavori stradali. Dicevo, gli ingorghi possono essere di varie categorie. Il più caratteristico è l'ingorgo all'ombrico. Si sviluppa negli anni una certa capacità a capire in anticipo quale possa essere la causa di un ingorgo nel quale si finisce per essere coinvolti, proprio dal moto delle autovetture. Se si allungano brevemente per poi fermarsi, questo è l'ingorgo tipicamente all'ombrico, bene, questo significa che c'è una riduzione di carreggiata per un motivo o per l'altro, quindi può essere un incidente, può essere un lavoro stradale. E qui devo dire che una delle reazioni veramente di cui è più facile vergognarsi di chi guida è quella di sperare che vi sia un motivo per l'ingorgo che non sia il fatto di aver sbagliato itinerario, il fatto di non aver preveduto il contrattempo. Nell'intimo di ciascuno di noi c'è la speranza che vi siano dei lavori. Io non mi sono mai spinto finora fino a sperare, come invece alcuni mi hanno confessato di fare, che vi sia addirittura un incidente. Ecco, io credo che questo sia veramente il punto di non ritorno, perché è vero che quando si finisce bloccati nel traffico, soprattutto nei mesi estivi, si cominciano a vedere madonne un po' dappertutto e si perda completamente il lume della ragione, ma fino a sperare che vi sia un incidente che in qualche modo giustifichi il contrattempo, ancora non sono arrivato. Poi vi sono invece altri tipi di ingorghi più difficili da capire, da interpretare, cioè il semplice rallentamento che poi improvvisamente diventa qualcosa di più serio, qualcosa di più immobile, e quello è tipicamente la conseguenza di un altro comportamento becero, vale a dire lo chiamerei il curiosismo, cioè il fenomeno che spinge le persone ad assistere a un incidente o a qualcosa di strano accaduto nell'altra carreggiata, nella carreggiata opposta. Cioè, che cosa spinge veramente le persone a rallentare e a causare un ingorgo per vedere quello che c'è dall'altra parte è davvero difficile da spiegare, però forse è qualcosa di simile al comportamento di quelli che in ambito invece pedonale si fermano e si accalcano per vedere altre persone che si accalcano, fino a risalire al motivo della curiosità, che poi è puntualmente deludente, come può essere, che so, a un caffè estivo un giocatore di Serie C seduto accanto ad una presentatrice di una TV locale. Ecco, questo potrebbe essere un buon paragone. E vorrei mandare il mio disprezzo, il mio odio più profondo per tutta questa categoria di persone che rallentano il traffico senza che ve ne sia fondamentalmente motivo nella sede stradale che stanno percorrendo. Cosa succede tra le varie macchine al momento di un ingorgo? Il passo è breve, sono vari modi per passare il tempo, ci sono coloro i quali si sono attrezzati e ascoltano la radio o addirittura i podcast, poi ci sono quelli che leggono il giornale, il che causa un fenomeno di microtamponamento che non può che aggravare ulteriormente la situazione. Ci sono questi personaggi che appoggiano il giornale sul volante, accelerano e decelerano alzando brevemente lo sguardo, ma alle volte magari non si rendono conto che stanno andando a sbattere contro qualcosa che si trova davanti, ed ecco che l'ingorgo peggiora escono dai rispettivi veicoli i proprietari, inizia magari una piccola rissa verbale. Un'altra cosa che succede è che ho notato che spesso scoppiano dei piccoli flirt tra un'autovettura e l'altra, ci sono giochi di sguardi, ci sono ragazze che si aggiustano i capelli guardando nello specchietto. Quello che magari molti immaginano come uno sport di gruppo, no? Dove magari prevale lo spirito del branco, un gruppo di ragazzi che apostrofa una bellezza femminile da un'altra parte, beh, in realtà è uno sport individuale, molto più intimo e soprattutto dove la parola non ha alcun ruolo. Neanche d'estate, quando i finestrini sono abbassati, ci sono degli ammiccamenti. Delle relazioni amorose che iniziano e finiscono nel giro di una quarantina di secondi. E per chiudere con gli atteggiamenti più viscerali, non credo di dire nulla di sconvolgente se ammetto di aver assistito a persone che si mettono le dita nel naso, nonostante che sia in un luogo tutto sommato affollato, nonostante che siano perfettamente osservabili sia direttamente sia tramite gli specchietti, e quindi si assiste a queste lunghe esplorazioni che producono alle volte dei risultati davvero aberranti.